Long John Fanning si acciglia e urla sonoramente con l'R in gola. A Chi vuole piccare, Giuda Iscariota? Carambolt, barbiere diplomato, col giubbotto color sangue e un grembiule da conciatore, una fune arrotolata sulla spalla, monta sul palco, un bastone piombato e una mazza chiodata infilati alla cintura. Si strofina ferocemente le mani pronte ad afferrare la vittima, tutte bozzolose per i salvanocche. Rumble, all'alto magistrato, con familiarità sinistra. Harry il forcaiolo, vostra maestà, il terrore della Mersey. 5 ghinee per giugolare. Il collo o nulla. Le campane della chiesa di San Giorgio suonano lentamente a morto, cupo metallo sonante. Le campane. Ehi, oh, ehi, oh. Blum, disperatamente. Aspetti, fermo, Gabbiani, buon cuore, ho visto Innocenza, la ragazza davanti alla gabbia delle scimmie, zoo, scimpanzé sudicioni, senza fiato, bacino pelvico, il suo rossore ingenuo ha ucciso l'uomo in me. Sopraffatto dall'emozione, ho abbandonato il posto. Si rivolge verso un volto tra la folla, appellandosi. Heinz, posso rivolgermi a lei? Mi conosce, quei trascellini può tenerseli, se ne vuole ancora degli altri. Heinz, freddamente. Mai visto né conosciuto. Seconda guardia. Indica un angolo. Ecco la bomba. Prima guardia. Macchina infernale a orologeria. Blum. No, no, zampetto di porco, sono stato a un funerale. Prima guardia, tira fuori il manganello. Bugiardo. Il bassotto alza il muso, mostrando la grigia faccia scorbutica di Paddy Dignam. Ha rosicchiato tutto. Esala un fiato putrido, nutrito di carogna. Cresce fino ad assumere forma e dimensioni umane. Il suo manto di bassotto tedesco diventa un vestito mortuario marrone. L'occhio verde gli lampeggia iniettato di sangue. Metà di un orecchio, tutto il naso e i due pollici sono stati divorati da vampiri. Paddy Dignam, con voce cavernosa. È vero, Era il mio funerale. Il dottor Finucane constatò l'avvenuto decesso quando ebbi a soccombere alla malattia per cause naturali. Alza il cinereo viso mutilato verso la luna e abbaia lugubremente. Blum, trionfante. Sentite! Paddy Dignam. Blum, sono lo spirito di Paddy Dignam. Odi, odi, odi. Blum, la voce è la voce di Esaù. Seconda guardia, si fa il segno della croce. Com'è possibile? Prima guardia. Questo non c'è nel catechismo a prezzo popolare. Paddy Dignam, per via di metempsicosi, larve. Una voce. Oh, sorbe! Paddy Dignam, seriamente. Una volta ero impiegato da John Henry Menton, procuratore delegato per giuramenti erogiti al 27 di Bachelor's Walk. Ora sono defunto, tessuti del cuore ipertrofizzati. Calogna. La povera moglie ne è rimasta spaventosamente scossa. Come lo sopporta? Tenetela lontana dalla bottiglia di sherry. Si guarda intorno. Un lampione. Devo soddisfare a un bisogno naturale. Quel latte acido mi ha fatto male. La figura corpulenta di John O'Connell, il custode, si fa avanti con un mazzo di chiavi legate con un nastro di crespo. Accanto a lui padre Caffi, cappellano, pancia di rospo, collo torto, con la cotta, un fazzoletto di seta a mo' di berretto da notte, tiene in una mano sonnacchiosa un bastone di papaveri intrecciati. Padre Caffi sbadiglia, quindi salmodia gracchiando rauco. Namine Jacobs, vo biscotti, amen. John O'Connell. Tempestosamente ulula a mo' di sirena d'allarme nel suo megafono. Dignam Patrick T. deceduto! Paddy Dignam rizza le orecchie, si ritrae. armoniche. Striscia avanti, un orecchio a terra. La voce del padrone. John O'Connell, registro di numazione e scheda numero SU 85.000, settore 17, ditta Chiavi, lotto 101. Paddy Dignam ascolta con visibile sforzo, meditabondo, coda ritta, orecchie tese. Paddy Dignam, pregate per la pace dell'anima sua. Si infila giù per una botola del carbone col vestito marrone che strascica la pastoia sull'acciottolato fragoroso. Dietro a lui trotterella un obeso nonno sorcio su zampe fungoidi da tartaruga sotto il guscio grigio. La voce di Dignam, soffocata, si sente abbaiare di sottoterra. Dignam è morto, è disceso di sotto. Tom Rochford, petto di pettirosso, con berretto e calzoncini, salta su dal suo apparecchio a due colonne. Tom Rochford, mano sul petto, s'inchina. Reuben Jay, un fiorino che lo trovo. Fissa la botola con sguardo risoluto. È in corso il mio numero. Seguitemi fino a Carlo. Esegue un salto mortale d'eccezione e viene inghiottito dalla botola. Due dischi sulle colonne vibrano, arrotondando occhi zeroidali. Tutto svanisce. Bloom avanza con passo pesante attraverso il pantano. Baci cinguettano negli spirali della nebbia. Si ode un pianoforte. Si ferma davanti a una casa illuminata, in ascolto. I baci, aleggiando dai loro recessi, gli svolazzano intorno squittendo, cinguettando, tubando. I baci, cinguettando. Leo, squittendo. Mucci, mucci, le cuzzi baciucci per Leo. Tubando. Cu, cu, cu. Yam, yam. Uom, uom. Cinguettando. Tutto mio, tutto mio. Piroetta. Leopold. Squittendo. Leule. Cinguettando. Oh, Leo. Frusciano. Volteggiano sui suoi abiti, si posano, lucenti pulviscoli impazziti, argentei lustrini. Bloom, tocco maschile, musica triste, musica di chiesa, forse qui. Zoe Higgins, giovane puttana in combinazione color zaffiro, chiusa da tre fibbie di bronzo, un esile nastro di velluto nero al collo, fa un cenno, saltella giù per gli scalini e lo avvicina. Zoe, stai cercando qualcuno? È dentro col suo amico. Bloom, è qui Mrs. Mac? Zoe, no, l'81. Qui è Mrs. Cohen. Andar più avanti potresti rimetterci. Mamma ciabattuna. Familiarmente. Stasera lavora anche lei col suo veterinario che le suggerisce su chi puntare e le dà tutti i vincenti e le mantiene il figlio a Oxford. È lavoro straordinario, ma la fortuna è cambiata. Sospettosamente. Non sei mica il padre, tu? Bloom. Io no. Zoe. Tutti e due in nero. E il topolino non ti pizzica stasera? La sua pelle risvegliata sente avvicinarsi i polpastrelli di lei. Una mano gli scivola sulla coscia sinistra. Zoe. E i corbelli? Bloom. Sono da quell'altra parte. Strano che siano a destra. Forse più pesante. Uno su mille, dice Mesias, il mio sarto. Zoe, con allarme improvviso. Hai una papola indurita. Bloom, neanche per idea. Zoe, la sento. La mano scivola nella tasca sinistra dei pantaloni e tira fuori una dura patata nera raggrinzita. Con umide labbra mute la donna fissa quella e Bloom. Bloom, un talismano. Ritaggio. Zoe, per Zoe? Me la dai? Perché son così brava, eh? Si mette avidamente la patata in tasca, poi lo prende a braccetto, stringendosi a lui con elastico calore. Egli sorride goffamente. Lentamente, nota a nota, si sente un'aria orientale. Egli guarda nel cristallo fulvo degli occhi di lei cerchiati di cohol. Il sorriso gli si fa più dolce. Zoe, così mi riconoscerai la prossima volta. Bloom, abbandonato, Non ho mai amato una dolce gazzella senza poi. Gazzelle che saltano, brucano sulle montagne. Intorno sono dei laghi. Sulle rive sfilano ombre nere di boschetti di cedri. Ascende un aroma, un'acre chiomata fioritura di resina. Accende l'oriente, un cielo di zaffiro, solcato dal volo bronzeo delle aquile. Sotto si stende la femminicità, nuda, bianca, quieta, fresca, lussureggiante. Una fontana mormora tra le rose di Damasco. Rose giganti mormorano di uve scarlatte. Un vino di vergogna, di lussuria, di sangue trasuda, stranamente mormore. Zoe, mormorando una cantilena al ritmo della musica, le labbra da odalisca voluttuosamente spalmate di grasso di maiale e acqua di rose. Shorach, ani venovach, beno it Yerushalayim. Bloom, affascinato. Avevo pensato dal tuo accento che tu fossi di buona estrazione. Zoe, e lo sai cosa ci si guadagna a pensare? Gli morde leggermente l'orecchio coi piccoli denti otturati d'oro, mandando fino a lui un nauseabondo alito d'aglio stantio. Le rose si aprono, rivelano un sepolcro dell'oro dei re e le loro ossa in polvere. Bloom. Si tira indietro, accarezzandole meccanicamente il capezzolo destro con il palmo della mano impacciata. Sei di Dublino? Zoe affina destramente un capello fuori posto e lo avvolge in una ciocca. Non c'è pericolo. Sono inglese. Hai uno zampirone? Bloom, come prima. Fumo poco, cara. Un sigaro ogni tanto. Gioco da bambini. Sconciamente. Ci sono modi migliori? Di riempir la bocca che con un cilindro d'erba pestifera. Zoe, forza, arringa la folla sull'argomento. Bloom, con una tuta di fustagno grezzo, jersey nero, cravatta rossa al vento e berretto da apache. L'umanità incorreggibile. Sir Walter Raleigh portò dal nuovo mondo la patata e quell'erba. L'una che stermina la pestilenza per assorbimento. L'altra che avvelena l'orecchio, l'occhio, il cuore, la memoria, la volontà, l'intelletto, tutto. Cioè a dire, egli portò il veleno 100 anni prima che un altro, di cui non ricordo il nome, portasse il cibo. Suicidio, bugie, tutte le nostre usanze. Guardate un po' la nostra vita pubblica. Rintocchi di mezzanotte da campanili lontani. I rintocchi. Ritorna Leopold, sindaco di Dublino. Bloom, in costume di assessore municipale con la catena. Elettori della riva Arran, della riva Inns, di Rotunda, di Mountjoy e del North Dock, sarebbe opportuno, dico, far correre una linea tranviaria dal mercato del bestiame al fiume. Ecco la musica dell'avvenire, ecco il mio programma. Cui bono, ma i nostri Van der Decken bucanieri nel loro vascello fantasma finanziario. Un elettore. Nove urrà per il futuro primo cittadino. Balza su nel cielo l'aurora boreale della fiaccolata. I portatori di torce. Urrà! Parecchi notabili della città, magnati e cittadini, stringono la mano a Bloom e si congratulano con lui. Timothy Harrington, già 3 volte sindaco di Dublino, imponente nel suo manto scarlatto, catena d'oro e cravatta bianca di seta, conferisce col consigliere Lorcan Sherlock, locum tenens. Tutti e due approvano energicamente. Il sindaco uscente Harrington, in veste scarlatta, con mazza, catena d'oro e gran cravatta bianca di seta. Che il discorso dell'assessore Sir Leo Bloom sia stampato a spese dei contribuenti, che la casa dove è nato sia ornata ad una targa commemorativa e la strada nota fino ad oggi come Cade la Vacca laterale di Cork Street sia d'ora in poi designata come Boulevard Bloom. Il consigliere Lorcan Sherlock. Approvato all'unanimità. Bloom, con passione. Cosa importa a questi olandesi volanti o posanti sdraiati sulla poppa imbottita a giocare a dadi? Macchine, questo è il loro grido di guerra, la loro chimera, la loro panacea. Apparecchi che risparmiano lavoro, usurpatori, spauracchi, mostri manufatti per il mutuo massacro, ignominiosi gnomi, generati da un'orda di libidini capitaliste sul nostro lavoro prostituito. Il povero muore di fame mentre loro pasciano i loro cervi reali o cacciano baggiani e fernici nella loro cieca burbanza di beni e potenza. Ma il loro regno è finito per sempre, e sempre, e sempre. Applausi prolungati. Spuntano dalla terra alberi di nave veneziani, alberi della cuccagna e archi di trionfo. Un festone con le iscrizioni «Cead mille falte» e «Ma tob melech Israel» attraversa la strada da parte a parte. Tutte le finestre sono affollate di spettatori, soprattutto signore. Lungo il percorso, reggimenti del Royal Dublin Fusiliers, degli scozzesi del re, dei Cameron Highlanders e dei Welsh Fusiliers, tutti sull'attenti, trattengono la folla. Ragazzi delle scuole superiori stanno appollaiati su lampioni, pali del telegrafo, davanzali, cornicioni, grondaie, comignoli, cancellate, garguglie, fischiando e applaudendo. Appare la colonna della nuvola. Si sente in lontananza una banda di pifferi e tamburi che suona il Colni Drae. I battistrada si avvicinano issando aquile imperiali, gagliardetti al vento e palme orientali ondeggianti. Lo stendardo papale Crisi Elefantino si leva alto, circondato dai gonfaloni del municipio. La testa del corteo appare con John Howard Parnell, maestro delle cerimonie, in un tabarro a scacchi, il pretendente di Athlone e il maestro d'armi dell'Ulster. Seguono il molto onorevole Joseph Hutchinson, sindaco di Dublino, sua signoria il sindaco di Cork, e le loro eccellenze i sindaci di Limerick, Galway, Sligo e Waterford, una rappresentanza di 28 pari d'Irlanda, i Sirdar, grandi e marajà che recano il manto da cerimonia, il corpo dei pompieri metropolitani di Dublino, il capitolo dei santi della finanza, nel loro ordine plutocratico di precedenza, il vescovo di Down e Connor, sua eminenza Michael Cardinale Log, arcivescovo di Armagh, primate di tutta l'Irlanda, sua grazia il reverendo dottor William Alexander, arcivescovo di Armagh, primate d'Irlanda, il rabbino capo, il moderatore presbiteriano, i capi delle chiese battista, anabattista, metodista e morava, e il segretario onorario della società degli amici. Dopo di loro marciano le corporazioni, i sindacati, le milizie con bandiera al vento, bottai, uccellatori, costruttori di mulini, agenti di pubblicità, giovani di studio legale, massaggiatori, vinai, fabbricanti di cinti erniari, spazzacamini, produttori di grassi alimentari, tessitori di popeline e stoffe di lana e seta, maniscalchi, magazzinieri italiani, decoratori di chiese, fabbricanti di calzatori per stivali, impresari di pompe funebri, merciai, lapidari, venditori all'incanto, tagliatori di turaccioli, controllori delle assicurazioni, tintori e lavatori a secco, esportatori di birra imbottigliata, pellettieri, stampatori di etichette, incisori di sigilli e stemmi, garzoni di maneggio, mediatori di metalli preziosi, venditori di articoli per il cricket e il tiro all'arco, fabbricanti di crivelli, rappresentanti di uova e patate, calzettai e guantai, appaltatori di impianti idraulici. Dopo di loro marciano i gentiluomini della camera, della verga nera, della giarrettiera, del bastone d'oro, il gran scudiere, il gran ciambellano, il gran maresciallo, il gran connestabile con la spada di giustizia, la corona di ferro di Santo Stefano, il calice e la Bibbia. Quattro trombettieri appiedati lanciano uno squillo. Rispondono i territoriali del re dando fiato ai corni di benvenuto. Sotto un arco di trionfo appare Bloom, a capo scoperto, in un manto di velluto cremisi guarnito di ermellino, col bastone di Sant'Edoardo, il globo e lo scettro con la colomba, la spada curtana. È seduto su un cavallo bianco latte, con una lunga coda color cremisi fluente, riccamente ingualdrappato, col frontale dorato. entusiasmo sfrenato. Le signore dai balconi lanciano giù petali di rosa. L'aria è impregnata di essenze odorose. Gli uomini applaudono. I paggi di Bloom corrono tra gli spettatori con rami di biancospino e di giunco.